9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno caro ascoltatore, buon inizio di settimana, buon lunedì 8 ottobre, auguri a coloro, non credo che siano tanti, che si chiamano Pelagio. Andare tutti allo zoo comunale, per esempio, allo zoo comunale è scappato fuori un politico nuovo, si chiama Gino Tremonti. Dice che lui è contrario a tutto quello che si vede, i banchieri che hanno potere, assolutamente. Ha fatto 2 giorni di convegno nel quale ha spiegato che bisogna tornare alla sovranità nazionale. Ma la sovranità nazionale chi l'ha compromessa? Chi c'era al governo in 18 anni? Che dite? È mancare di rispetto ricordarlo Giulio Tremonti? Poi c'è Cicchitto che gli dice che lui adesso fa il neomarxista. Stavano insieme, si insultano. Ma vengo anch'io a tutt'uno. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Il mondo migliore, sì, leggetevi La Stampa, aprite a pagina 9 e trovate Giustizia Lumaca, 18 miliardi persi, tempi record per le controversie tra società. Ecco perché gli investitori stanno alla larga del paese. Pare quasi invece a sentire le parole di Giulio Tremonti ieri che lui non ci fosse e il responsabile di tutti. La colpa sarebbe di Berlusconi, che in effetti ne ha tante, ma perché, capite, lo ha bloccato nel cosiddetto legal standard, perché tutto il mondo con il legal standard avrebbe dato una risposta vera a questa cosa orrenda che lui descrive come il fascismo bianco. Il fascismo bianco sarebbe Mario Draghi, mentre il suo legal standard invece avrebbe salvato il mondo. Se il legal standard del PDL, va! Quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, no. Bene, ultima notizia in pillole. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalacci aggiorna sull'eterna odissea del disegno di legge contro la corruzione che i partiti politici italiani e soprattutto il PDL, per il suo legal standard altissimo appunto, muore dalla voglia, come si vede, di approvare senza infarcire di nuove norme per il caso Ruby. Come è evidente, il legal standard del PDL, appunto di quel che ci ricorda sempre Giulio Tremonti. Però, in un'intervista al Messaggero, Catricalacci annuncia che ci sarà un commissario per la lotta alla corruzione. Anzi, un super commissario. Vi dirò che gli annunci dei super commissari sembrano sempre la maniera in cui gli ordinamenti che non riescono a funzionare nelle cose ordinarie promettono con un pugno di polvere negli occhi che ci sarà una deroga. Ordinamenti che non funzionano, e con la deroga all'ordinamento che non funziona, ecco che a quel punto avremo un ordinamento che funziona. Credo che con gli strappi a ordinamenti che non funzionano avremo un ordinamento che non funziona 2 volte tanto, tranne la promessa ovviamente della maniera straordinaria. Ma questo è perché io vorrei un ordinamento che dal punto di vista standard apposta e appunto funzionasse, tutto ciò che nel nostro paese non è, se andiamo a vedere i tempi della giustizia, se andiamo a vedere come sono organizzati gli uffici giudiziari. Quando dico organizzati non intendo solo le caratteristiche ordinamentali su cui per 20 anni la politica si è legnata, bisogna separare le carriere, non separare le carriere. pensate solo a quello che abbiamo detto nelle ultime due puntate quando parlavamo dell'agenda digitale, e pensate alle giuste lamentele che spesso i magistrati alzano perché non hanno avuto risorse, perché non bastano le risorse. Per esempio, per l'informatizzazione della giustizia noi abbiamo speso, siamo il terzo paese nell'Unione Europea negli ultimi 12 anni per le risorse che abbiamo speso. Peccato che, come abbiamo fatto in sanità, abbiamo fatto anche per gli uffici giudiziari. Come in sanità abbiamo reso ogni centro di spesa autonomo nel procurement, cioè nel decidere quale hardware, quale software, quale computer, quale server farsi, così abbiamo fatto anche con gli uffici giudiziari, con il risultato che abbiamo speso un bel po' di miliardi, ma ogni ufficio giudiziario si è auto-organizzato, per così dire, e i procedimenti, quando si spostano, vanno avanti ancora tutti per faldoni cartacei. Anzi, ci sono alcuni grandi uffici giudiziari, per esempio quelli romani, in cui dei volenterosi giovani non pagati negli studi di avvocati si organizzano con un mercato parallelo, e c'è una tariffa per il quale, per esempio, la tua causa civile e i tuoi bei faldoni, hoppla, spariscono, e quindi il procedimento si annulla in una nuvola di polvere, è il caso di dire, perché come Fiorito aveva il suo trita documenti, ce l'hanno a quel punto anche le parti del procedimento che vogliono che hopla sparisca, e questo malgrado i miliardi che abbiamo speso. Allora, sto arrivando piano piano a parlare di giustizia, perché in questa trasmissione, che non sarà corporativa, cioè non è una trasmissione fatta perché chi vi parla ha paura di andare in galera, almeno per il momento, parleremo di come si fa la libertà di stampa in un paese in cui esiste un ordinamento, esiste una costituzione, esistono delle leggi, alcune forse sarebbero da rivedere, vediamo quali, e in cui si rischia, abbiamo tutti ricordato in queste settimane, sul caso Sallusti, ve lo ricordate, direttore del giornale, che i giornalisti possono andare come in carcere, e lì, come al sempre, ci si è spaccati tra chi diceva Sallusti esercitato in maniera così intollerabile, non l'esercizio del diritto alla libertà d'opinione tutelato dall'articolo 21, ma è venuto meno a ogni ABC del suo mestiere di giornalista, che alla fine in carcere vada il turpe diffamatore che scrive che un magistrato aveva fatto abortire una minorenne quando nulla era vero, e soprattutto non era vero ed era stato smentito puntualmente nelle ore in cui invece veniva siglato quell'articolo firmato dei Frust al giornale. Ma questo punto, come vedete, è un punto che è tornato di attualità. Tornato di attualità perché alla fine andremo in campagna elettorale, le querele si moltiplicheranno, i giornalisti quale limite vero devono avere per rispettare il diritto al pluralismo dell'informazione e per non immaginare invece che la calunnia, la diffamazione spalanchi poi le porte del carcere? Ecco, ne parliamo, perché è uscito un libro che vi consiglio, perché dà puntuali risposte anche non solo per giuristi, cioè non è un libro tecnico, anche se è tecnicamente inappuntabile, per Il Mulino, e si intitola Le regole dei giornalisti, istruzioni per un mestiere pericoloso. A firmarlo sono l'avvocato Caterina Malavenda, che per i giornalisti è specie di nome tutelare, perché oltre agli corsi di insegnamento che tiene, è una di quelle che riescono a vincere in materia cause che fanno a quel punto diventano pietre miliari nella giurisprudenza. Insomma, ne ha salvati parecchi di noi che se in mani un po' meno, diciamo, avvedute, sarebbero finite con sanzioni più pesanti. Quindi è una che si batte professionalmente per questo. Poi abbiamo un altro avvocato, Carlo Melis de Ril, che è esperto di diritto dell'informazione e di internet, e poi il professor Giulio Neavigevani, che insegna diritto costituzionale e diritto d'informazione e della comunicazione in bicocca. Allora, io li ho tutti e tre in studio. Buongiorno Vigevani, buongiorno Melis de Ril e buongiorno Caterina Malavenda. Buongiorno. Dopodiché avremo anche il brivido di avere un collega di quelli che rischiano il carcere, cioè Nuzzi, cioè quello dei libri che fanno saltare le cose oltre Tevere, e non solo quei libri lì. Insomma, un esperto nel fare libri con documenti scottanti, documenti su cui si aprono processi e quindi si rischia. Allora, io inizio con il professor Vigevani nel dire: ma non è che questo articolo 21 del pluralismo che tutti invocano, eccetera, eccetera, è un mezzo pasticcio più che una grande garanzia? No, l'articolo 21 è una grande garanzia, fissato finalmente dopo secoli nel nostro ordinamento, un pilastro fondamentale sulla libertà di stampa. È stato criticato perché si è detto che non garantiva sufficientemente il pluralismo dei media e quant'altro, però sostanzialmente ha avuto una funzione fondamentale nei 60 anni ormai di storia repubblicana. anche grazie poi a come è stato interpretato la Corte Costituzionale. Quindi oramai, insomma, si è d'accordo che non è l'articolo 21 tanto che ha creato un sistema che, come vedremo probabilmente anche oggi, ha qualche zona grigia, qualche lacuna, qualche difficoltà. Cioè, io so perché glielo chiedo, perché l'articolo 21 viene citato di solito per difendere la RAI, viene concepita come il pluralismo al suo interno, una cosa per cui c'è la libertà di espressione, e si confonde un pochino col denaro pubblico il pluralismo e l'usbergo, l'articolo 21, con quello che poi è diventato di fatto. Per quello è diventata un'azienda alle mani ai partiti pro tempore più rilevanti, organizzati secondo uno, due, tre, i tre che comandano di più se la prendono e se la spartiscono. Che c'entra con l'usbergo costituzionale quella roba? Ma infatti nell'articolo 21 proprio di questo non si parla, e non c'è nessuna protezione di un sistema radiotelevisivo pubblico. Anzi, dall'articolo 21 si ricava una cosa che è molto importante, cioè l'obbligo per i servizi pubblici, per esistere, di essere indipendenti. Indipendenti in primo luogo dalla politica. L'ha detto la Corte Costituzionale, seppure debolmente, ma molto debolmente, però non così debolmente, e soprattutto anche a livello europeo, soprattutto a livello di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e nei vari paesi europei oramai che la RAI non è più qualcosa di necessario a tutti i costi, si dice che il servizio pubblico per esistere deve essere indipendente, se no non ha più senso. E l'articolo 21 aiuta in questo senso, proprio perché dice, non dice che deve esistere un servizio pubblico, ma che deve esserci una libera manifestazione del pensiero e di conseguenza un sistema effettivamente plurale e autonomo rispetto agli appetiti partitocratici. Proprio, mi sembra proprio che non ci sia alcuna corrispondenza tra l'articolo 21 e quanto possa essere la triste storia del servizio pubblico in Italia. E speriamo, perché di solito invece la triste storia del servizio pubblico dai suoi difensori viene per così dire molto molto confusa con l'esercizio di un pluralismo. In questi 18 anni in cui la politica è stata muscolare incontro di gladiatori, curva nord, curva sud, Berlusconi anti Berlusconi, molto spesso questo argomento è ricorso. Allora, i nostri ascoltatori ci portano immediatamente al tema che avevo lanciato, perché dicono: Oscar, come al solito, fa gioco delle tre carte. Adesso mi rivolgo all'avvocato Mezzerin. Fa gioco delle tre carte perché un conto è naturalmente esprimere opinioni, altro conto è ingiuriare, come fa naturalmente Sallusti, che deve finire in carcere. Questo è Giorgio che mi manda questo sms. E io ricordo a Giorgio che l'abuso della libertà di opinione è parte costitutiva del fatto che nella storia noi le tutele alla libertà di opinione le abbiamo raggiunte grazie al fatto che per alcuni secoli dei matti un po' con la lingua lunga e tagliente come me, più di me, hanno pubblicato gazzette, libelli, eccetera, eccetera, nel quale per abbattere l'odiosa censura che veniva esercitata dagli stati assoluti, che molti di voi rimpiangono, che cosa si faceva? Si parlava di alta politica, secondo voi? Si diffamava, si parlava di chi nelle alcove reali, le favorite, i re portavano minorenni, vergini, monache, bambini. Ecco, questo era l'argomento dei libelli e delle gazzette. O credete forse che fossero alati trattatelli sulle primarie del PD? No, erano cose pesantissimamente diffamatorie. Abusi, certo, abusi della libertà d'opinione. La censura non sarebbe sparita, cari miei topolini in ascolto, senza dei violenti diffamatori che fanno anch'essi parte, a buon diritto, anzi, sono nel primo libro dell'onore di come siamo arrivati ad abolire la censura. Però ovviamente questa roba è un po' eccessiva nei tempi di oggi, vero avvocato De Rille? Sì, sì, un po' eccessiva, anche se bisogna dire che cioè, su due profili. Il primo, nel nostro ordinamento esistono delle sanzioni anche pesanti, e l'abbiamo visto appunto con il caso Sallusti. Ogni tanto, anche anni fa, vi erano progetti di riforma del reato di diffamazione e tutti si scandalizzavano perché si parlava di carcere ai giornalisti. In realtà il carcere ai giornalisti esisteva come? Perché, come abbiamo potuto, come dire, come tutti hanno potuto vedere in questi ultimi tempi, l'articolo 13, legge stampa, che è il reato classico della diffamazione ai giornalisti, cioè la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e a mezzo stampa, prevede una pena fino a 6 anni di reclusione. Uno dei reati più gravi previsti dal nostro ordinamento, che consente, tanto per dirne una, la custodia cautelare in carcere, volendo. C'è un meccanismo tecnico particolare per cui in realtà quasi mai, direi sostanzialmente mai, la sanzione detentiva viene applicata nei confronti dei giornalisti, perché l'articolo 13 è una aggravante che viene bilanciata praticamente sempre dall'attenuante delle attenuanti generiche, si elide, si passa all'articolo 595 di diffamazione semplice, che prevede una sanzione alternativa, reclusione o multa, e i giudici di solito applicano sempre la multa. Perché sottolineo questi di solito? Ed è forse anche uno dei temi del libro, perché nel nostro ordinamento esistono delle sanzioni assai pesanti che la giurisprudenza si è in qualche modo incaricata di, non dico aggirare, però quasi sterilizzare, perché queste sanzioni non corrispondono più al sentimento comune. Salvo che però qualcuno un giorno decida che così non si fa più. Perché nell'ordinamento la possibilità c'è, nessuno la legge l'ha cambiata, e il giudice dice... Quale sentimento comune? Questo tipo senza capelli io in carcere lo mando. Esatto. Dopodiché diciamo anche un'altra cosa. E cioè che io ho letto la sentenza della Corte d'Appello. Corte di Cassazione ancora non ha depositato le motivazioni, ma non credo che possa dire qualcosa di particolarmente originale rispetto a quello che dice la Corte d'Appello. La Corte d'Appello applica due meccanismi. Questo che ho citato prima del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, e quello relativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena, secondo criteri che nel nostro ordinamento sono abbastanza usuali per i reati normali, per tutti i reati. C'è da dire che nei confronti di giornalisti c'era una giurisprudenza particolarmente poco severa, e se posso dare un'opinione, giustamente particolarmente poco severa, proprio perché quelle sanzioni non corrispondevano più al sentimento sociale. Però, ripeto, non è che la Corte d'Appello si è inventata una norma che non esiste. No, no, per carità, ecco, di Dio. Questo... La Corte d'Appello ha fatto ricorso a una norma che esiste pienamente. Il problema è capire se quella tendenza a bilanciare con le attenuanti in nome del fatto che vi fosse un senso comune oramai diffuso, condiviso, come dire, fosse in questo caso da ritenere impropria, per così dire. Quali sono i particolari motivi per cui si lo ritiene impropria? Quali sono la recidività, il numero di cause che ogni giornalista, come in questo caso, per esempio, può essere criteri? La prima è stata, può essere, l'ha detto proprio la Corte d'Appello, questo è uno dei criteri, anche perché distinguiamo applicazioni di attenuanti generiche e applicazioni di sospensione condizionale della pena. Per applicare la sospensione condizionale della pena c'è bisogno di una prognosi positiva di non recidivanza, per dirlo in altri termini. Bisogna che il giudice valuti, ritenga che il reo non commetta altri delitti. Allora, nessuno di noi, e nemmeno i giudici, sono il mago Telma, per cui come fa a... insomma, talvolta alcuni assomigliano. Come fa a fare una prognosi di questo genere? Classicamente lo fa sulla base dei precedenti. In questo caso questa prognosi positiva non l'ha fatta. E devo dire la verità che se si fosse parlato di un altro reato, probabilmente questa prognosi instradava in un ragionamento abbastanza comune. Dopodiché, finisco soltanto. Il problema, e forse qui passo proprio la palla, il problema è il legislatore. Cioè queste disposizioni vanno modificate. Cioè, dico questo perché la Corte d'Appello non si è inventata una norma, forse sono le norme da modificare. Io temo che però casi come quello di Sallusti non avvicinino ma allontanino come una pacata riflessione sul fatto che questo, il carcere per i giornalisti, possa scomparire, tranne casi veramente straordinari. Perché ho la sensazione che il caso Sallusti non è un caso che viene vissuto, lo abbiamo visto tutte le volte che abbiamo parlato a questi microfoni e dai messaggi che arrivano. Il caso Sallusti non costituisce agli occhi della generalità dell'opinione pubblica un caso di fronte al quale tutti dicono qui siamo all'applicazione di una cosa veramente che è da considerarsi parenta, decaduta, insomma questo giudice... No, perché questo è un caso di fronte al quale gli italiani classicamente si spaccano e dicono Sallusti in galera deve stare Sallusti, Fazzagli. Come ovvio, da una parte, e dall'altra dicono norma fascista eccetera eccetera. Peraltro anche confermata la legge sulla stampa 48, non faceva sbagliando. Per carità, come vede, la prevengo, qualche cosa ci ricordiamo, avendo dato qualche esamuccio anche su questa materia. E però, io questa è la mia opinione, cioè io ho la sensazione che è un passo indietro per il clamore pubblico e perché gli italiani sono muscolari. Però chiedo all'avvocato Malavenda, invece, come consideri questo caso? Se aiuterà o meno a circoscrivere, a intervenire nelle parti dell'ordinamento che, insomma, secondo me sono un po' sbilanciate, perché il carcere secondo me con queste materie non ha a che fare. Io l'ho spiegato qua, ma sono stato subissato dai miei ascoltatori, ho detto io sono per sanzioni finanziarie più pesanti, anche perché nella mia esperienza sono le uniche, quando colpiscono non solo gli editori ma i giornalisti, di fronte a quello ho visto i giornalisti davvero poi, per così dire, sensibilizzarsi. Magari mi sbaglio. Come la pensa l'avvocato Malavenda? Penso che il soggetto e il tempo che ci rimane non siano buoni consiglieri per il Parlamento, nel senso che purtroppo, per fortuna, giornalisti come Sallusti sono nati per dividere, e quindi non è più il giornalista tipo, ma certo, è Sallusti, certo, che ispira grandi simpatie e grandi antipatie. E quindi qualcuno dice Sallusti in galera ci sta bene. Dall'altra parte abbiamo questo conto alla rovescia sul giornale che ci dice che mancano 20 giorni, sì, perché si decide la cosa. Il disegno di legge Pecorella è del 2008, quindi sono 5 anni che stiamo ragionando di questo argomento. La fretta non è buona consigliera. Peraltro io ho visto, ovviamente mi interesso delle proposte, c'è una proposta di legge che è l'unica che va in commissione deliberante al Senato, giovedì va in votazione, nella quale si fanno due cose. Si elimina il carcere totalmente, perché è l'unica strada per consentire a Sallusti di non andare in carcere, perché se rimanesse anche come pena alternativa rimarrebbe la condanna. Dall'altra parte qualcuno ha avuto l'idea, che mi sembra da lei condivisa, che bisogna incentivare le pene pecuniarie, per cui si è stabilito che qualunque diffamazione da qualunque giornalista provenga, da Sallusti al giornalista diciamo meno noto, costi almeno 30.000 euro. Il che vuol dire che alla sanzione penale della multa, che potrà essere sospesa oppure no, e al danno che viene liquidato per tutti i direttori e giornalisti, si aggiungerà solo per i giornalisti, piccoli, grandi, che abbia scritto una riga o un articolo, almeno 30.000 euro aggiuntive. Il che non aiuta, ecco, devo dire. Il che non aiuta, perché si passa da un criterio pesante detentivo a un criterio non molto sensato anche dal punto di vista della graduazione del peso finanziario. Posso chiedere una cosa? Ma questo monarca assoluto nei confronti del quale la legge sulla stampa, cioè tra tutti i tipi di capi impresa, il direttore di un giornale, di una testata, non certo solo di Cataspa, ha questi poteri assoluti che poi naturalmente configurano anche questa responsabilità, no? La responsabilità in vigilando e così via, eccetera. Ma per come funzionano oggi le cose, cioè per come funzionano le tecnologie in tempo reale, per tu c'hai il tuo redattorino che è esperto, un nativo digitale, come si dice oggi, non equivale a essere sapienti, essere nativi digitali. Conosco anche tanti idioti digitali, però detto questo, lui è bravo nell'utilizzo delle cose, tu lo metti lì a fare subito il rilancio, eccetera, eccetera. E nella fretta con cui il mago della tecnologia interviene, tu non hai proprio, non lo avresti neanche volendo il tempo reale, perché oggi chi primo fa il rilancio della notizia è il primo che tenta di portare a casa sui portali il pubblico, no? Questo è il teaser, è una classica cosa. Allora, che senso ha far convivere queste specie di poteri assoluti medievali del direttore del giornale quando le cose si fanno in tempo reale, avvocato? Ma il senso comune è che guadagni abbastanza il direttore da avere i suoi rischi. Questa è un po', diciamo, la vulgata. Devo dire che la responsabilità del direttore aveva un senso quando è stata immaginata. 8 pagine battute in tipografia si potevano leggere con calma. Appunto. Adesso, sempre questa legge che sta in discussione, sta addirittura ampliando la responsabilità del direttore delle testate registrate, ampliandole anche alle versioni online. Sì. Quindi Ferruccio De Bortoli o tutto quello che c'è. Tutto, in tempo reale. Che è chiaro che non ha nessuna possibilità di esercitare. Senso. E anche per le produzioni firmate. Intendo dire, se lei fa un articolo e firma Oscar Giannino, si immagina che abbia fatto le sue verifiche e si assume la responsabilità. Che no. Senso ha che il suo direttore ne risponda per omesso controllo, avendo lei che ha già fatto le verifiche necessarie? È una bella domanda, però perché questo non è chiaro al legislatore? Questa è una bella domanda, ancora una volta, perché secondo me non c'è una grande volontà politica di intervenire in questa materia, perché le immagini quanti sono coloro che hanno in mano la legge, che hanno fatto querele o che hanno fatto cause civili a giornali e giornalisti? Lei metterebbe un tacchino a scegliere se è andata, no, si mangia carne o pesce? Direi di no. Però naturalmente non si può prevedere l'ipotesi che il legislatore sia mondo dall'aver esercitato i suoi diritti di tutela nei confronti di questa brutta bestia che sono quelli dei giornalisti. In realtà questa dovrebbe essere una delle caratteristiche. A metterci mano dovrebbero essere quelli che hanno meno propensione alla querela o che incidono o che incappano in meno querele. Naturalmente non si può fare, ma dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Non è che non ne sanno niente in media i politici di che cosa è una moderna impresa editoriale? O forse non gli interessa saperlo. O forse non gli interessa saperlo. Invece sempre una domanda che faccio all'avvocato, in questo caso l'avvocato Mezzedei. Ma secondo lei il giudice che spesso si trova questi fascicoli per le mani, nella media, non se sto chiedendo di esprimere giudizi su questo o quell'ufficio giudiziario o nome e cognome, ma nella media si mostra più esperto del legislatore nel conoscere davvero l'evoluzione dell'impresa editoriale moderna, contemporanea, o anche lui prende il codice, legge il codice, eccetera, eccetera, ed emana la sua bella sentenza? Che esperienza ha lei? Allora, dipende naturalmente, perché generalizzare è difficilissimo, però devo dire la verità che io mi fido più per carità, della categoria dei magistrati che di quella dei politici, se non altro perché dovrebbero avere. Ma un avvocato, io interrompo l'avvocato, ma un avvocato non dovrebbe dire che non si deve fidare dei magistrati quasi per costitutivamente? Siete autori, non potrà mai dirmi di sì, ma questa è una vecchia polemica con l'avvocato che si fida dei magistrati. Ma che avvocato è un avvocato che si fida dei magistrati? Posso aggiungere che anche molti magistrati fanno querele? Beh, guardi, ci arriviamo tra poco al fatto delle querele dei magistrati, perché una cosa è sicura: quando te lo fa un magistrato finisci con la testa sotto la... Lei mi vuole provocare? No, la invito ai suoi doveri d'ufficio, per così dire. Se lei si fida di un magistrato perde clienti, lo dico per lei. Io sto facendo una valutazione comparativa e sto dicendo che mi fido più dei magistrati che dei politici, però lei mi ha interrotto, adesso finisco la risposta. No, ma visti i politici attuali va bene, trancia. Esatto. Mi fido più dei magistrati dei politici, ma le spiego anche il perché. Se non altro per un ragionamento induttivo, che a proposito del tacchino, il tacchino induttivista dovrebbe far capire che il ragionamento induttivo non sempre è quello migliore, ma... per un ragionamento di tipo induttivo mi fido più dei magistrati, perché tutte le volte in cui, o almeno negli ultimi anni, quando ho avuto l'avventura di studiare disposizioni nuove introdotte dal nostro legislatore, ho trovato più scivoloni che colpi di genio. Viceversa, nel leggere le sentenze ogni tanto trovo qualche magistrato che, appassionatosi al tema, si appassionano, studiano, legge, stavo dicendo la stessa qualche cosa, no, questo è vero. E contribuiscono a quello che dovrebbe essere il milieu comune di tutti quanti nel cercare di trovare la soluzione migliore, che è ciò che poi consente, speriamo, gli avanzamenti delle soluzioni ordinamentali. No, su questo devo dire la verità. Ma i costituzionalisti invece? No, ad esempio, tornando ai magistrati molto rapidamente, su internet, sul rapporto stampa internet, secondo me la Cassazione negli ultimi anni ha fatto delle sentenze esemplari, pulite, chiare, leggibili, che dicevano che la stampa è una cosa, internet è un'altra, e non si poteva allegramente prendere la disciplina nata per una e applicarla all'altra, sull'altra. A differenza di quello che mostrerebbero essere pronti a fare questi progetti in Parlamento. In maniera di una rozzezza assoluta, perché proprio senza neanche porsi qualche problema di cosa sia stampa online, su cosa sia periodico online, farebbe il legislatore così con un tratto di penna, mentre la Cassazione è anni che ragiona su queste cose, perciò i giudici davvero qualche volta fanno bene il loro mestiere. Allora, prevedevo che ci sarebbero state reazioni di incendiarie come quelle che leggo qui, perché c'è chi dice naturalmente che anche solo l'accostamento di Sallusti è pioniere della lotta contro la censura, è sacrilego, e testimonierebbe naturalmente che io sono servo di Berlusconi. Non capisco cosa c'entri, però va bene, ci sono molti di voi che continuano a pensarlo. Dopodiché c'è gente che dice, vediamo un pochino, ci rimettiamo a Pecorella. Ecco, ce ne sono 4 o 5, quindi è ovvio che l'avvocato Pecorella continua a essere per voi uno dei punti di riferimento del diritto italiano. Dopodiché ci sono alcuni che dicono invece che è una puntata per l'impunità ai giornalisti. Siete o non siete il quarto potere, si capisce solo che ovviamente una legge civile sarebbe quella di abolire la detenzione solo per voi, liberi di diffamare a quel punto una casta di rango superiore rispetto alle altre. Bah, non riesco proprio a capire perché vi abbiamo dato quest'idea. Stiamo tentando di ragionare, ripeto, l'occasione è quella di un libro che esce per il Mulino, in cui si spiega come le regole dei giornalisti, si intitola, non è affatto un proclama per rendere i giornalisti irresponsabili. E Caterina Malavenda, Carlo Mezzedei e Giulio Nera Vigevani sono in studio, sono gli autori. Vi posso garantire che sono avvocati e giuristi che semplicemente vi aiutano a capire un po' buchi, contraddizioni, ma anche cose salde, solide, che le regole dell'ordinamento devono continuare a preservare. Abbiamo con noi adesso, mentre loro restano in studio e torneremo a sentire la loro opinione, Gianluigi Nuzzi. Gianluigi Nuzzi, collega di quelli che con i suoi libri, per esempio l'ultimo sul Tratevole, come vedete è capace di muovere montagne e di far saltare cose importanti, visto che allo IOR la Banca Vaticana è saltata per aria proprio per le carte che Gianluigi Nuzzi ha messo alla base del suo ultimo libro, e da questo poi è scaturito il procedimento di cui avete letto sui giornali. È rarissimo che ci siano corti penali riunite col vecchio codice Zanardelli Oltretevere, ma avete visto come uno dei collaboratori della più stretta cerchia di Papa Benedetto XVI è stato appena condannato, a dire la verità, a pochi mesi di detenzione, che poi gli verranno anche graziati. Tutto sempre perché Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un libro con grande perizia giornalistica nel procurarsi appunto le fonti e nel procurarsi i documenti. Poiché Gianluigi Nuzzi pratica questo sottile terreno, la terra di nessuno, per così dire, in cui riuscire a fare questi colpi giornalistici configura naturalmente per i soggetti di cui scrivi quasi sempre l'opinione che li hai diffamati, calunniati, che sei un delinquente, che ti porteranno in tribunale e così via. Gli chiedo, Gianluigi, oltre a salutarti, ma nel fare il tuo mestiere di cronista d'assalto, quanto ti fa paura la gabbia del carcere che incombe su Sallusti? Inevitabilmente fa paura perché può essere una prospettiva o perché finisci appunto nelle ruote, dico, della fortuna a volte della giustizia italiana, perché gli esiti non sempre sono corrispondenti alle responsabilità, no? Ma la verità processuale non sempre rispecchia la verità dei fatti. Quindi certo mi fa paura. Due, vedi, è ovvio che il pubblico reagisca, i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori reagiscano così, perché la compensazione tra il diritto di informare, il diritto alla tutela della dignità e della privacy delle persone, e sono equilibri difficilmente perseguibili. Se noi ne parliamo, però, non è solo per un fatto meramente corporativo, perché sennò nessun giornalista vuole che leviamo le pene. Si vuole trovare un equilibrio che non ci sia la cascata della prigione, questo fondamentalmente. Se poi gli ascoltatori, lo dico provocatoriamente, vogliono le carceri, allora possiamo azzerare le libertà dei giornalisti e fare come c'era in Albania tanti anni fa. Io andai e lì la legge sulla stampa c'era un unico articolo e diceva che la stampa era libera di dire quello che voleva. Allora tutti possono applaudire perché dicono: ah, vedi che democrazia. No, invece è una dittatura, perché se la stampa può scrivere qualsiasi cosa, se i giornalisti possono dire qualsiasi cosa, perdono la loro credibilità. Quindi ci vuole, in sintesi, ci vogliono delle pene. Queste non devono essere detentive, devono essere pecuniarie, come ci sono in tutti gli altri paesi, perché la prospettiva del carcere impedisce la libertà di stampa. Questa è in sintesi. Allora, io un po' la penso come Gianluigi Nuzzi. Avvocato Malaventa, se andiamo a fare un esame comparato davvero su questo punto, visto che voi iniziate e terminate il libro con un capitolo che dice il mestiere pericoloso del giornalista, e il capitolo conclusivo si intitola, il paragrafo del capitolo conclusivo si intitola un mestiere davvero pericoloso, ma se facciamo un esame comparato negli altri paesi, se dovessimo indicare chi ha trovato secondo lei la soluzione più equilibrata nel dosare, insomma, la giusta diffida dal poter scrivere, diffamare con pesantezza, con invece un regime temperato ma efficace anche nel provvedere poi al buon giornalista, perché questo è uno dei potenti incentivi dei buoni giornalisti invece che cattivi giornalisti. Ma guardi, per esempio in America ci sono sanzioni economiche fortissime a carico degli editori di norma, però con una fortissima tutela per i giornalisti, i quali hanno emendamenti che li tutelano a tutto campo. Il problema vero, mi pare che i nostri ascoltatori abbiano preso una deriva sbagliata, se mi posso permettere. Va bene. Perché guardi, è come quando uno apre il rubinetto dell'acqua, no? Finché l'acqua scende uno non si pone il problema. Il giorno in cui apre il rubinetto e l'acqua non scende, capisce quanto è importante l'acqua. Ora, noi siamo convinti che l'informazione sia talmente ampia, talmente capillare, talmente vasta, da non poter essere comunque ingabbiata, e quindi lo consideriamo un dato di fatto acquisito. Però, lei prende un giornalista qualunque, di un qualunque giornale che non abbia le spalle larghe come le testate, quelle certo. famose, che scrive un articolo su un potente locale o anche su una persona normale, e ha la sciagura di sbagliare, diffondendo un fatto falso, ma senza malafede, semplicemente perché le fonti non erano complete, eccetera. Può avere la multa, il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale, la riparazione pecuniaria, l'ordine che interviene con sanzioni disciplinari, l'interdizione della professione se non è incensurato. Certo. Il tutto lei lo porti in un paesino della Calabria, per esempio. Dove 30.000 euro sono una vita. Altro che. Sono una vita, perché è facile dire, vabbè, tanto io scrivo su una testata grossa, c'ho l'editore forte alle spalle. Io ricordo sempre l'Indipendente, che è stata una bellissima stagione giornalistica, io credo, con Elio Bimercati, che poi è mancato. A un certo punto l'editore è fallito. Bimercati ha fatto fronte con i suoi soldi finché ha potuto, poi i giornalisti sono rimasti tutti in mezzo a una strada, con cause civili in corso, che sono andate ovviamente a sentenza con delle condanne pecuniarie, senza un editore alle spalle. Mm-mm. C'è gente che ha dovuto vendere le case, perché poi sembra facile, ma tu devi 20.000 euro, vengono a pignorarti la casa di famiglia, la macchina, lo stipendio. Allora, diciamo a questi ascoltatori che pensano che siano tutti ricchi e famosi giornalisti, che ci sono così. Quegli altri che rischiano anche la vita, vorrei aggiungere, quindi non il carcere ma la pena capitale, e che però per i quali anche una sanzione da 1.000 euro può fare la differenza fra, come dire, poter esatto. lavorare oppure no. E soprattutto significa avere una molta, molta minor libertà nei posti dove è più difficile e sui terreni su cui è più delicato, cioè la lotta alla corruzione, la lotta alle grandi reti criminali, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose qua, con questo tipo di sanzioni noi scoraggiamo i giovani e bravi e capaci a far fare un passo avanti la libertà di tutti. Sentiamo rapidissimamente un ascoltatore. Carlo da Pescara, prego. Carlo, ce la riesci a fare telegrafica l'opinione? Ci proviamo? Sì. Buongiorno dottor Giannino. Allora, io vorrei fare una domanda però a tutti voi, e partendo dalla mia idea che non mi convince questo fatto di depenalizzare completamente la professione giornalistica. Lei vuole tenere il carcere, la domanda? No, ecco, la questione è questa. Non diciamo che tutti quelli che sono contro sono dei forcaioli, perché non è questo. Sennò veramente si scade nella corporativismo. Sì. E non diciamo che sono tutti a favore della legge come oggi, perché che vada modificata e migliorata possiamo essere tutti d'accordo. A questo punto la domanda è, dato che la professione giornalistica, per come funziona oggi, e l'abbiamo visto tutti, è in grado di aggredire deliberatamente il patrimonio delle persone, la loro reputazione, la loro professione e anche la salute, sì. in molti casi, e dato che questo può essere fatto in modo deliberato e reiterato, perché dovremmo escludere le conseguenze penali in questo caso, quando in tutte le altre... Chiarissimo, Carlo dice, visto che è tutto così grave, perché escluderla? Chi si candida degli autori? Provo a rispondere. Sì. Allora, io lo capisco benissimo questo punto di vista, e in realtà c'è un senso, perché in Italia, in fondo, sono stati tantissimi casi in cui i giornalisti, e lo posso dire qua, sono sembrati più dei sicari armati piuttosto che dei professionisti della libera informazione, e questa è la nostra grande debolezza. E tornando anche a quello che diceva prima Oscar Giannino, più quando degli ordinamenti sono veramente liberi, con delle regole liberali, molto spesso l'informazione è molto autorevole. Più l'informazione è asservita in qualche modo, più le regole sono severe, quindi ci deve essere un doppio passaggio.